Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Secondo i dati diffusi all'inizio del 2016, la flotta mercantile italiana si collocherebbe al 21° posto della classifica mondiale, in calo rispetto all'anno precedente. Eppure, il cluster marittimo nazionale rappresenta uno dei settori più dinamici della nostra economia. In questo contesto di sfide e opportunità, lo scorso 24 ottobre si è riunita a Roma Confitarma per l'assemblea annuale della Confederazione Italiana Armatori. Il gruppo, che rappresenta oltre 230 tra gruppi armatoriali, società di navigazione, imprese ed enti, ha fatto il punto sull'attuale situazione della flotta mercantile italiana e sulle prospettive future legate sia alle performance del mercato nazionale ed internazionale, che risente della crisi del colosso cinese, sia alle evoluzioni normative del settore. In Italia, ad esempio, è stata da poco recepita la normativa sulla pesatura dei container e si è in attesa del sì di Bruxelles ai decreti attuativi di Mare Bonus, che favoriranno l'intermodalità marittima. Ma quando si parla di economia del mare, non si può dimenticare il trasporto passeggeri, un settore vitale e importante in un paese a forte vocazione turistica come l'Italia. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Si è svolta lunedì scorso a Roma la consueta assemblea di Confitarma, l'associazione che raggruppa gli armatori navali italiani. È stato un momento importante per fare il punto su questa modalità così importante per il mondo dei trasporti. Un'analisi che è stata fatta alla presenza del ministro dei trasporti Graziano Del Rio. E allora, per sapere com'è andata, abbiamo nostro ospite oggi Emanuele Grimaldi, che è il presidente di Confitarma. Allora, presidente, quali sono state innanzitutto le principali tematiche affrontate? Prima di tutto è far capire sempre al paese l'importanza del settore. Il lavoro che si svolge sul mare è un lavoro importantissimo. Noi contiamo in Italia per circa 32 miliardi di euro di prodotto interno lordo, forse oltre il 2% del lavoro, della produzione, del prodotto interno lordo e anche dell'occupazione, perché la forza lavoro nel settore marittimo e ovviamente nell'indotto del settore marittimo sono 471.000 persone, quindi è veramente un settore importantissimo, straordinario, e l'Italia è uno dei paesi in Europa che ha avuto una maggiore crescita. Ecco, presidente, quindi numeri assolutamente importanti sul fronte economico. Si tratta di un settore che però ha un'importanza strategica anche per quanto riguarda l'ambiente, perché non dimentichiamo che il trasporto sia di merci e sia soprattutto di passeggeri via nave è un trasporto ambientalmente sostenibile. Sicuramente di tutte le forme di trasporto la più sostenibile. Do due numeri proprio per indicare l'importanza. Allora, il 90% delle merci che si muovono nel mondo si muovono attraverso il settore marittimo, oltre il 90% del commercio mondiale avviene attraverso il settore marittimo. Il peso invece delle emissioni di CO2 del settore marittimo rispetto alle emissioni nel mondo sono del 2,2%. Questa assemblea arriva in un momento sicuramente particolare per il mercato del trasporto navale, e mi riferisco in particolare proprio al trasporto dei container. È notizia di queste settimane del fallimento di una delle più importanti aziende internazionali impegnate nel trasporto dei container e del crollo assoluto del prezzo dei noli, appunto. Come impatta questa situazione sul nostro sistema navale italiano? Certamente, vuol dire, è una crisi molto forte, anche perché alcuni dicevano in Inghilterra che è un perfect storm, addirittura, perché non colpisce solo il settore contenitori, che è un settore dove, diciamo, delle grandi navi al mondo ce ne sono 5.000 su 90.000 sono quelle contenitori, ma al di là di questo settore importantissimo, quello dei contenitori, che colpisce, oggi vive e da ormai 9-10 anni una grandissima crisi il settore delle materie prime, del bulk, del trasporto delle rinfuse secche, ormai sono circa 9-10 anni di crisi. E anche un altro settore che vive una crisi molto forte è l'offshore, il supply, quindi sono quelle navi che aiutano i rigs, che sono ovviamente quelli che servono per, diciamo, per estrarre petrolio a mare. Sono molti. Cioè sono vari aspetti di questa crisi. Molti settori che, diciamo, sono stati colpiti per anni, e quindi direi che quello che è importante è la consapevolezza che le istituzioni, per quanto riguarda l'Italia, devono capire che è un momento molto difficile, che bisogna non solo supportare questo settore in questo momento di difficoltà, ma avere un'attenzione e dare chiarezza al futuro. Cioè. Ecco, a proposito di chiarezza del futuro, sempre questa assemblea arriva in un momento particolare per il mondo della portualità del nostro paese, perché ci sono tanti provvedimenti che lo riguardano, c'è una riforma della portualità e della logistica con un accorpamento delle autorità portuali, ci sono novità sul fronte dei dragaggi e quindi delle capacità dei porti di ricevere delle grandi navi, non solo portacontainer ma anche navi da crociera. Insomma, c'è tutto un movimento in questo momento attorno ai porti e attorno alla modalità marittima che lascia ben sperare. Sono sicuramente d'accordo, è un momento molto particolare, molto importante. Diciamo che questa riforma, gli aspetti principali di questa riforma portuale sono che viene dato ovviamente più potere al ministro per la scelta del presidente, che viene una scelta quindi molto responsabile da parte del ministro, che tra l'altro ha fatto una lunga selezione partendo da tutti i curriculum possibili e cercando di fare una selezione meritocratica su quelli che saranno i futuri presidenti, che presto, credo che nel giro di pochi giorni sapremo, che verranno nominati. Poi c'è un maggior potere del presidente della Port Authority all'interno della Port Authority, affinché insomma possa essere più risolutivo nelle decisioni che si devono. Naturalmente auspichiamo che i presidenti siano persone di grande qualità, di grande capacità, in modo che queste scelte saranno, diciamo, da un lato più snelle, ma anche diciamo finalizzate verso il bene, comune, gli interessi generali del paese. Presidente, al centro dell'assemblea di lunedì ovviamente anche il tema dell'intermodalità, ossia della possibilità di far viaggiare le merci utilizzando tutte le modalità di trasporto, non solo il mare ma anche la ferrovia, anche la gomma, quindi la strada. Qual è stato il messaggio rivolto appunto alle altre modalità? Noi abbiamo una collaborazione molto importante soprattutto sulle autostrade del mare. Sa che, voglio dire, questo ministro, tra l'altro questo ministero, hanno varato delle leggi importanti sul mare bonus e il ferro bonus, che sono per sviluppare l'intermodalità dei camion che prendono le vie del mare e quelli che, diciamo, il ferro bonus, quelli che prendono la ferrovia. Quindi una spinta verso, che ovviamente porta ad un servizio di qualità e anche una. Io credo che c'è una nuova sfida che non è stata molto percepita, ma è importantissima, che la stiamo portando avanti, che è non solo l'internazionalizzazione dello source shipping verso i paesi vicini del Mediterraneo, non solo la coesione e diciamo la continuità territoriale verso le grandi isole, che sono la Sicilia e la Sardegna, sono un po' più scontate, e dove si è fatto non bene, benissimo. Allora, l'intermodalità verso le isole è cresciuto del 160%, quello internazionale del 1100% negli ultimi anni. L'altra sfida enorme e importantissima è quella del cabotaggio continentale, che è una nuova sfida che noi abbiamo lanciato e che ci auguriamo che, insomma, dai porti del Mezzogiorno si possa, voglio dire, raggiungere i porti del Nord Italia con una grande competitività marittima che riduce anche i costi, che può contribuire al rilancio del Mezzogiorno. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.